Capitolo quarto. Brusca riconversione su Albertine. Desolazione allo spuntar del sole. Parto immediatamente con Albertine per Parigi. Non aspettavo che un'occasione per la rottura definitiva. E una sera, poiché la mamma il giorno dopo partiva per Combray per assistere nella sua ultima malattia una sorella di sua madre, lasciandomi lì perché approfittassi, come avrebbe voluto la nonna, dell'aria di mare, gli avevo annunciato che ero irrevocabilmente deciso a non sposare Albertine e che presto avrei smesso di vederla. Ero contento d'aver potuto, con queste parole, dare una gioia a mia madre alla vigilia della sua partenza. Non m'aveva nascosto che lo era stato davvero per lei e molto viva. Bisognava che mi spiegassi anche con Albertine. Mentre tornavo con lei dalla Raspellière e i fedeli erano già scesi, alcuni a Saint-Mars-le-Vieux, altri a Saint-Pierre-des-Ifs, altri ancora a Doncières, mi ero finalmente deciso, sentendomi particolarmente felice e distaccato da lei, e dato che ormai nello scompartimento non c'eravamo più che noi due, ad affrontare il discorso. La verità, d'altronde, era che tra le fanciulle di Balbec, quella che amavo e che, sebbene assente in quel momento come le sue amiche, sarebbe presto tornata, stavo bene con tutte perché ciascuna aveva per me, come il primo giorno, qualcosa dell'essenza delle altre, apparteneva a una razza speciale, era Andrée. Poiché sarebbe stata di nuovo, fra pochi giorni, a Balbec, sicuramente sarebbe venuta subito a trovarmi e allora, per rimanere libero, non sposarla se non volevo, poter andare a Venezia e però intanto averla tutta per me. Il sistema che avrei usato sarebbe stato di non mostrarmi troppo sollecito con lei. Dopo il suo arrivo, quando ci fossimo trovati a parlare, le avrei detto: «Che peccato non avervi incontrata qualche settimana prima. Vi avrei amata. Adesso il mio cuore è impegnato. Ma non importa. Ci vedremo spesso perché sono triste per l'altro mio amore e voi mi aiuterete a consolarmi». Sorridevo fra me e me pensando a questa conversazione, perché in quel modo avrei dato ad André l'illusione di non amarla veramente. Così non si sarebbe stancata di me e io avrei approfittato con gioia e dolcemente della sua tenerezza. Ma tutto ciò rendeva ancora più necessario che io parlassi seriamente, infine, ad Albertine per non mancare di delicatezza. Dal momento che ero deciso a dedicarmi alla sua amica, bisognava che lei, Albertine, sapesse bene che non l'amavo. Bisognava dirglielo subito perché Andrée poteva arrivare da un giorno all'altro. Ma, vicini ormai a Parville, capii che quella sera non ne avremmo avuto il tempo e che era meglio rimandare al giorno successivo ciò che ormai era irrevocabilmente deciso. Mi limitai dunque a parlare con lei del pranzo di poco prima dai Verdurin. Al momento di rimettersi il mantello, mentre il treno aveva già lasciato Ancarville, ultima stazione prima di Parville, Albertine mi disse: «Domani allora, Riverdurin, non dimenticatevi che tocca a voi venirmi a prendere». Non potei fare a meno di rispondere abbastanza seccamente: «Sì, a meno che io non stacchi, perché comincio a trovare veramente stupida questa vita. In ogni caso, se ci andiamo, perché il tempo che passo alla Raspellière non sia del tempo completamente perduto, bisognerà che mi ricordi di chiedere a Madame Verdurin una cosa che potrà interessarmi molto, fornirmi materia di studio e procurarmi del piacere, visto che quest'anno a Balbec ne ho avuto poco davvero. Non è gentile verso di me, ma vedo che siete nervose, quindi non me la prendo. Qual è questo piacere?» «Che Madame Verdurin faccia eseguire per me alcuni pezzi d'un compositore di cui conosce benissimo le opere. Anch'io ne conosco una, ma sembra che ce ne siano altre e avrei bisogno di sapere se sono edite, se sono diverse dalla prima». «Che musicista?» «Bambina mia, quando ti avrò detto che si chiama Vinteuil, ne saprai molto di più». Possiamo aver voltato e rivoltato tutte le idee possibili. La verità non vi è mai entrata. È dal di fuori, quando meno ce l'aspettiamo, che essa ci vibra la sua atroce puntura e ci ferisce per sempre. Non sapete quanto mi divertite, rispose Albertina alzandosi, perché il treno stava per fermarsi. Non soltanto ne so molto di più di quanto non crediate, ma anche senza Madame Verdurin potrò avere tutte le informazioni che vorrete. Se vi ricordate, vi ho parlato di un'amica più vecchia di me, che m'ha fatto da madre, da sorella, con la quale ho passato a Trieste i miei anni più belli e che del resto devo rivedere fra poche settimane a Cherbourg, da dove partiremo insieme. È un po' bizzarro, ma sapete quanto io amo il mare. Ebbene, questa amica, oh, assolutamente no, non il tipo di donna che potreste credere. Pensate che cosa straordinaria. È per l'appunto la migliore amica della figlia di quel Vinteuil. E io la conosco quasi altrettanto bene, la figlia di Vinteuil. Le chiamo sempre le mie due sorelle maggiori. Non mi dispiace mostrarvi che la vostra piccola Albertine potrà esservi utile in queste cose di musica di cui dite sempre, a ragione del resto, che non capisco nulla. A queste parole pronunciate mentre entravamo nella stazione di Parville, così lontano da Combray e da Montchauvin, tanto tempo dopo la morte di Vinteuil, un'immagine mi si agitava in cuore, un'immagine tenuta in serbo per un numero di anni tale che se anche avessi potuto sospettarla, mentre allora la immagazzinavo, di qualche potere nocivo, avrei poi creduto alla lunga che l'avesse affatto perduto. Conservata viva in fondo a me, come Oreste, la cui morte era stata sventata dagli dèi perché gli potesse nel giorno stabilito tornare in patria e punire l'assassino di Agamennone. Per il mio supplizio, per castigarmi, chissà, d'aver lasciato morire la nonna, pronta forse a balzar di colpo dal fondo della notte, dove sembrava sepolta per sempre, e a colpire come un vendicatore, per avviarmi a una vita terribile, meritata e nuova, forse anche per farmi esplodere davanti agli occhi le conseguenze funeste che gli atti malvagi generano all'infinito, non solo per chi li ha commessi, ma anche per chi non abbia fatto, non abbia creduto di far altro che contemplare uno spettacolo curioso e divertente, come avevo fatto io, ahimè, in quel lontano crepuscolo a Montjuven, nascosto dietro un cespuglio, quando, come la volta che ero stato a sentire compiaciuto il racconto degli amori di Swann, avevo rischiosamente lasciato che sapesse in me la strada funesta e destinata a farsi dolorosa del sapere. E nello stesso tempo, del mio dolore più grande, io ebbi un sentimento quasi orgoglioso, quasi di gioia, quello d'un uomo cui il colpo ricevuto abbia fatto fare un balzo tale da condurlo là, dove nessuno sforzo avrebbe potuto innalzarlo. Albertine, amica di Mademoiselle Vinteuil e della sua amica, praticante professionale del saffismo, era, rispetto a quanto avevo immaginato nei miei dubbi peggiori, ciò che sono, rispetto al piccolo acustico dell'esposizione del 1889 con cui si poteva sperare a malapena d'arrivare dalla cima d'una casa a un'altra, i telefoni che sorvolano le vie, le città, i campi, i mari, collegando l'uno all'altro i paesi. Era una terribile terra incognita, quella a cui ero approdato, una fase nuova di sofferenze inaspettate, quella che mi si apriva. E tuttavia, il diluvio della realtà che ci sommerge, pur essendo enorme in rapporto alle nostre timide e infime supposizioni, vi era già implicito in forma di presentimento. Era senza dubbio qualcosa come ciò che ora avevo scoperto. Era qualcosa come l'amicizia fra Albertine e Mademoiselle Vinteuil, qualcosa che la mia mente non avrebbe saputo inventare, ma che oscuramente paventavo quando mi preoccupavo tanto nel vedere Albertine accanto ad André. Spesso è solo per mancanza di spirito creativo che non ci si spinge abbastanza avanti nella sofferenza. E la realtà più terribile apporta, insieme con la sofferenza, la gioia di una bella scoperta, perché non fa che dare una forma nuova e chiara a ciò che da tanto tempo andavamo rimuginando senza rendercene conto. Il treno si era fermato a Parville e poiché eravamo i soli viaggiatori che fossero rimasti nei vagoni, fu con voce infiacchita dal senso dell'inutilità del compito, da quella stessa abitudine che peraltro glielo faceva svolgere, ispirandogli ad un tempo precisione e indolenza e più ancora dalla voglia di dormire, che il ferroviere gridò «Parville!». Albertine, che era di fronte a me, constatando d'essere arrivato a destinazione, fece qualche passo dal fondo del vagone dove ci trovavamo e aprì lo sportello. Ma il movimento che così compiva per scendere mi lacerava intollerabilmente il cuore, come se, in contrasto con la posizione indipendente dal mio corpo che sembrava occupare a due passi da esso il corpo di Albertine, quella separazione spaziale che un disegnatore scrupoloso del vero sarebbe stato costretto a raffigurare fra noi non fosse che un'apparenza, e come se, volendo ridisegnare le cose secondo la realtà autentica, fosse ora necessario situare Albertine non a qualche distanza da me, ma dentro di me. Mi faceva così male, allontanandosi, che per riafferrarla la tirai disperatamente per il braccio. «Sarebbe materialmente impossibile, le chiesi, che veniste a dormire a Balbec stasera?» «Materialmente no, ma casco dal sonno. Mi fareste un favore immenso». «Allora, d'accordo, anche se non capisco, perché non me l'avete detto prima? Va bene, resto». Mia madre dormiva quando, dopo aver fatto dare ad Albertine una camera ad un altro piano, entrai nella mia. Mi sedetti vicino alla finestra, reprimendo i singhiozzi, perché mia madre, da cui mi separava soltanto una sottile parete, non mi sentisse. Non m'ero nemmeno curato di chiudere gli scuri, giacché a un certo punto, alzando gli occhi, vidi di fronte a me, nel cielo, lo stesso piccolo bagliore d'un rosso spento che si vedeva al ristorante di Rivvel in uno studio di tramonto dipinto da Elstir. Ricordai l'esaltazione che avevo provata quando, il primo giorno del mio arrivo a Balbec, l'avevo vista dal trenino, quella stessa immagine di una sera che non precedeva la notte, ma un nuovo giorno. Ma nessun giorno ormai sarebbe più stato nuovo per me, né m'avrebbe ispirato il desiderio di una felicità sconosciuta. Avrebbe solo prolungato le mie sofferenze finché non avessi più la forza di sopportarle. La verità di ciò che Cottard mi aveva detto al casinò di Ancarville era ormai indubitabile ai miei occhi. Quello che da tempo avevo temuto, vagamente sospettato di Albertine, quello che il mio istinto estraeva da tutto il suo essere e che invece i miei ragionamenti, guidati dal desiderio, m'avevano a poco fatto negare, era vero. Dietro di lei non vedevo più le montagne azzurre del mare, ma la camera di Montjuven, dove Albertine cadeva fra le braccia di Mademoiselle Vinteuil con quel suo riso in cui si sentiva come il suono segreto del suo godimento. Infatti, bella com'era Albertine, era mai possibile che Mademoiselle Vinteuil, con i gusti che aveva, non le avesse chiesto di soddisfarli? E la prova che Albertine non ne fosse stata sconvolta, ma avesse acconsentito, era che non avevano litigato, che la loro intimità, anzi, non aveva fatto che crescere. E quel movimento grazioso di Albertine che posava il mento sulla spalla di Rosemont, la guardava sorridendo e la baciava sul collo, quel movimento che m'aveva ricordato Mademoiselle Vinteuil e per la cui interpretazione ero stato tuttavia riluttante ad ammettere che una stessa linea tracciata da un gesto risultasse per forza da una stessa inclinazione, chissà che Albertine non l'avesse molto semplicemente imparato da Mademoiselle Vinteuil?